Bella ragazzi, bentornati e bentornate a questa nostra serie chiamata La finestra sul giardino. Per chi non lo sapesse, questa è la quarta puntata. Io sono Edo e insieme a Paola oggi proveremo a raccontarvi l'incontro tra asfalto e terra, individuando alcuni dei luoghi in cui questo incontro si manifesta. Ma prima, sigla! Asfalto e terra, dicevamo. La città è lo spazio in cui questa discrasia prende forma. Due elementi così contrastanti eppure così vicini. E noi cittadini, giardinieri, dobbiamo prestare la massima attenzione a tale incontro. Dobbiamo saperlo osservare, giudicare, contrastare laddove necessario. Per iniziare questa breve storia, ci sono due considerazioni, a mio parere, indubitabili da cui partire. La crescita dell'entità città nel tempo è stata, e continua ad essere, direttamente proporzionale alla riduzione del verde. Allo stesso tempo, però, la città è il luogo in cui maggiormente si concretizza l'incontro, la relazione, il miscuglio e quindi il conflitto e il compromesso tra l'uomo e gli altri esseri viventi. The Clash. Come avrete intuito dall'introduzione di Edo, oggi parliamo di verde urbano. Ma partiamo prima da determinare cosa intendiamo quando facciamo riferimento a questa locuzione. Allora, nell'accezione più storica, l'aggettivo urbano si riferisce principalmente al verde pubblico. Quindi si intende il patrimonio di aree verdi che insiste sul territorio dei comuni, gestito direttamente o indirettamente da enti pubblici. In questo ambito sono compresi diversi tipi di aree verdi. Pensiamo al verde attrezzato, ai parchi urbani, al verde storico, alle aree di arredo urbano e aree definite speciali come possono essere i giardini delle scuole, gli orti botanici o i vivai. Viene da sé però che con la crescente consapevolezza dei problemi ecologici, soprattutto nelle aree densamente abitate, l'accezione di urbano ha iniziato a inglobare anche parte del verde privato. Infatti ad oggi i regolamenti comunali sul tema comprendono tutte quelle norme per la tutela, la manutenzione e la fruizione del verde, sia esso pubblico che privato, presente sul territorio. Fortunatamente iniziano quindi ad imporsi dei vincoli sempre più stringenti, almeno sulla carta, per gestione del capitale naturale cittadino, come conseguenza del fatto che il verde è visto oggi sempre più come un bene comune. Di conseguenza tutti noi cittadini, giardinieri, ne siamo responsabili. Cosa ne pensi, Edo, come giardiniere, quindi osservatore privilegiato dell'evoluzione nella relazione tra verde e cittadini? Sì, questo è proprio un punto interessante della nostra riflessione. Come ci hai appena chiarito, fortunatamente negli ultimi decenni una crescente coscienza ecologica, diremmo, unita a una razionalità classificatoria, ha racchiuso nell'espressione verde urbano tutta quella parte di flora, e necessariamente di fauna che la abita, che dovrebbe essere tutelata come bene comune, appunto. Come di certo tutti possiamo osservare con i nostri occhi, e insisterò durante questa puntata sulla pratica dell'osservazione, non sempre questa tutela è esercitata nel migliore dei modi, però. La riduzione del verde ad opera dell'urbano, cui abbiamo appena accennato, è concorsa con un quasi totale annullamento dell'interesse e della partecipazione della cittadinanza nell'opera di protezione e relazione con la natura. Ne sono un triste esempio le attualissime ossessioni securitarie, sovrastrutture che dominano ogni tipo di percezione del verde. Se il verde dunque non è solo un colore ma un variegato bene comune, allora esistono delle pratiche da attuare, dei meccanismi da decostruire, degli avamposti giardinieri da progettare al fine di salvaguardarlo. Oggi proveremo insieme a rilevare alcuni di questi elementi e a trasmetterveli, con lo scopo preciso di persuadere chi ascolta sul fatto che ognuno ha la propria responsabilità giardiniera all'interno della città, e questa responsabilità si attua sia nello spazio privato che in quello pubblico. Esatto, qui alla finestra sul giardino, come avrete capito, non c'è distinzione di proprietà. Non potremo d'altronde guardare al mondo come a un grande giardino planetario senza poi parteggiare per il fronte dell'interdipendenza tra tutti i viventi e soprattutto della responsabilità condivisa verso le rispettive simbiosi. Perché il confine alla fine è una tecnologia umana, un'invenzione storica che dobbiamo ripensare. L'universo vegetale invece conosce sì differenze al suo interno, ma non confini netti che lo separino. Per un osservatore esterno questo concetto può sembrare quasi intuitivo, ma i meccanismi peculiari che rendono le piante un'unica nazione, tanto per citare un altro stimato botanico Stefano Mancuso, afferiscono alla disciplina della neurobiologia vegetale, tutto sommato recente come tema di ricerca. Edo, ti va di darci qualche esempio di questo modus operandi del mondo vegetale? Grazie Paola per la citazione. Allora, se consideriamo il verde nella sua totalità come un bene pubblico, facciamo un primo passo innanzitutto verso la conoscenza della sua alterità, dando una spallata al nostro sempre presente antropocentrismo. Per le piante ovviamente la proprietà privata non esiste nemmeno nell'ambito della propria individualità, o quantomeno non come la intendiamo noi. Ogni attività vitale delle piante infatti avviene all'interno del contesto organico cui partecipano tanti altri attori, il suolo, l'entomofauna, l'acqua, persino noi uomini. Un esempio semplice che rende chiaramente questo concetto, secondo me, riguarda i cosiddetti esudati radicali, e cioè quella parte di ciò che le piante elaborano grazie alle proprie diverse capacità, tra cui una fra tutte quella fotosintetica, e che rilasciano attraverso le radici al suolo. Qualcuno dice che questo dono alla rizosfera, cioè alla sfera del suolo, corrisponda quasi al 25% del loro intero serbatoio nutritivo. Noi lo definiremmo dono, anzi lo definiamo dono, ma nel campo relazionale che unisce i diversi esseri viventi, tale cedimento è ovvio, anzi necessario. Gli esudati, infatti, oltre a nutrire i microrganismi, permettono al suolo di essere stabile e vivo. Tutto questo ci chiarisce in maniera inequivocabile qual è il ruolo del giardiniere e di come tutti, assumendo su di sé tale ruolo, ovviamente ognuno nella misura più adatta a sé, possono compiere una scelta etica e politica fondamentale nel salvaguardare la relazione di continuo scambio che è necessario che sussista tra noi e il mondo naturale. Technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, try it. Toss it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stuck, format it. Touch it, scroll it, close it, click it, cross it, crack it, switch, update it. Scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, zip, unzip it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name. Daft Punk. Allora, abbiamo definito quindi cosa intendiamo quando parliamo di verde urbano, almeno qui in trasmissione, perché abbiamo escluso deliberatamente di affrontare il tema in maniera più istituzionale, trattando magari di norme, leggi, regolamenti, e vogliamo invece concentrarci su una visione più di senso, soprattutto stimolare una riflessione che possa riguardarci tutti e dare anche dei punti cardinali per orientare le nostre scelte quando si parla di conflitto tra salvaguardia ambientale ed esigenze umane di occupazione del suolo. Ci è sembrato quindi essenziale in questo blocco portare un esempio e approfondire la questione attraverso la lente dell'esperienza. Abbiamo scelto un caso che ha coinvolto in tempi recenti, l'anno scorso 2019, la città di Bologna, in particolare il quartiere San Donato San Vitale. Parlo del caso, qualcuno di voi avrà sicuramente sentito parlare, di riqualificazione delle alberature stradali di via Bentivogli. Perché questo caso nello specifico? Allora, è facile osservare in questa storia tutti gli elementi che caratterizzano il conflitto di cui parlavamo prima riguardo la progettazione urbana. Da una parte si perseguono i criteri di economicità di gestione e di sicurezza in caso di pericoli strutturali, e dall'altra è necessario però includere nelle valutazioni anche l'impatto ambientale e sociale degli interventi. In particolare sulle alberature, ricordiamo che gli alberi sono i nostri alleati maggiori nella lotta all'inquinamento. La garanzia del benessere cittadino, infatti, inevitabilmente include anche la possibilità di fruire degli spazi verdi. Edo, voi e alcuni vostri colleghi come giardinieri siete stati coinvolti. Descrivici un po' meglio quello che è successo in via Bentivogli. Sì, quella di via Bentivogli è una vicenda a cui ci siamo interessati sia come giardinieri che come cittadini. Una nostra collega nello specifico, che salutiamo ovviamente, ciao Rosy. Ciao! Ha anche portato alcune istanze importanti in consiglio comunale. Cerco di riassumere velocemente l'avvenimento, focalizzandomi prevalentemente sugli elementi utili alla nostra discussione. Allora, il contesto è quello della Cirenaica. Via Bentivogli è un viale alberato, abitato prevalentemente da una comunità di olmi, circa 90. Un'analisi molto approssimativa ad opera di tecnici incaricati dal comune ha decretato nel 2019 l'abbattimento di 27 di questi olmi e la loro sostituzione con giovani esemplari di acero campestre. Primo elemento di criticità, l'analisi è stata approssimativa nel senso che ha dichiarato questi olmi come non stabili senza aver effettuato preventivamente alcun test di stabilità. Il secondo elemento di criticità, invece, riguarda i motivi addotti a tale presunta instabilità che ha portato nel decennio precedente al crollo di 3 di questi esemplari. Come espresso ancora molto chiaramente sulle pagine online del Comune di Bologna, i crolli sono stati dovuti alle potature attuate negli anni e rese necessarie dalla vicinanza con gli edifici. Anche un bambino, anzi soprattutto bambini e bambine, capirebbero che è difficile che un viale alberato urbano non sia vicino di case di edifici abitati. Ma non è nemmeno tanto questo l'aspetto rilevante, quanto piuttosto il fatto che quelle potature, rese necessarie come è stato dichiarato, sono state effettuate nel peggiore dei modi, cioè sono state effettuate delle capitozzature. Terzo elemento di criticità. Gli olmi presenti erano alberi già adulti, di se non prima, quantomeno seconda grandezza, capaci cioè di arrivare fino a 25-30 metri tranquillamente e 10-12 di larghezza. L'acero campestre invece con cui sono stati sostituiti è una specie di terza grandezza che in un contesto urbano può raggiungere al massimo i 10-12 metri d'altezza. Anche in questo caso i nostri bambini giardinieri e le nostre bambine giardiniere capirebbero immediatamente il vantaggio che i nostri olmi producevano rispetto agli aceri a livello di immagazzinamento di anidride carbonica, mitigazione delle isole di calore e presenza. Su quest'ultimo aspetto chiudo, ma mi preme sottolinearlo, perché oltre ai vantaggi misurabili scientificamente, un albero è una presenza, è un essere vivente che condivide con noi uno spazio e un tempo, e questo lo si comprende solo se si inizia ad osservarlo. Quindi, da giardiniere, e secondo la tua esperienza, suggerisci che il conflitto che si viene a creare tra la sicurezza e la preservazione delle grandi alberature a volte potrebbe in realtà essere risolto alla base se ci fosse una manutenzione che spesso viene definita scellerata da parte delle ditte appaltanti che si occupano della loro cura. Per esempio, piantumare lasciando spazio alle radici, potare seguendo l'andamento dell'albero o fare dei piccoli interventi costanti per valutarne la salute e la stabilità. Se c'è una nota positiva in questa vicenda, però, ed è anche il motivo per cui abbiamo deciso di raccontare questa storia, è la sensibilità di alcuni abitanti della zona, che pur di proteggere quegli alberi nelle strade sotto casa, perché ricordiamo che si tratta di un viale alberato e non di una riserva naturale, si è mobilitata riunendosi in comitati, riuscendo alla fine addirittura a fermare alcuni abbattimenti o comunque a vigilare sulla scelta pubblica, senza demandare disinteressata a chi quella zona non la vive. È evidente che per loro quella porzione di verde urbano ha benefici che non rientrano nelle analisi tecniche rilevate dal comune. D'altronde, come hai detto tu prima, è tanto banale quanto intangibile riuscire a calcolare il benessere che deriva dall'aprire la finestra della cucina e vedere la chioma di un albero invece che un muro o un palo della luce. Voice of the Voiceless, in omaggio a tutti gli abbattimenti dimenticati di grandi alberi. A volte siamo un po' radicali qua. Allora, abbiamo parlato degli alberi e dei loro benefici ambientali, ma guardando alle nostre città ci rendiamo conto che buona parte di ciò che è considerato verde è composto da spazi in realtà modesti. Giardini, aiuole, zone sparse di traffico, spazi popolati principalmente da erbacee e arbusti. Spazi che sono voluti e progettati, quindi inseriti nel contesto. In questi luoghi possiamo osservare che sempre di più la logica del breve termismo sta per fortuna perdendo appeal e viene sostituita da intenzioni progettuali più sostenibili. Quindi vengono installate aiuole senza irrigazione, giardini con semina a prato misto. Però è anche vero che in città ci sono anche tutti quegli spazi definiti residuali, che diventano interessanti nel nostro discorso sul giardino planetario proprio per il loro potenziale di resistenza e opportunità futuribili. Pensiamo ad esempio a luoghi prima antropizzati, poi abbandonati, paesaggi secondari, dove un tempo c'è stata progettualità, come le vecchie fabbriche abbandonate, i cigli delle strade dove c'è il cemento spaccato, le ferrovie, zone periurbane al confine tra il cemento e la campagna coltivata. Clément definisce questi insiemi di luoghi terzo paesaggio e nel suo manifesto sottolinea come ogni organizzazione razionale del territorio dà origine a zone prive di funzione, zone marginali e in penombra. Per spingere un po' più in là il discorso sul verde urbano, quest'ultima parte quindi la vogliamo dedicare alle zone residuali. Non possiamo non parlarne, perché per noi il terzo paesaggio è verde in potenza. Questi luoghi potrebbero nel loro complesso diventare piccoli corridoi ecologici se fossero pensati, progettati, voluti, soggetti a decisione umana e contribuire così a vari livelli al benessere cittadino, in termini sia di impatto ambientale che di aumento della biodiversità. Poi pensate alla qualità estetica di questi luoghi se fossero progettati. Edo, raccontaci un po' come si comporta la natura nei luoghi residuali quando è lasciata a se stessa. Come si comporta la natura se lasciata a se stessa? Beh, per prima cosa mi viene da sottolineare una cosa. La natura, e nello specifico le piante di cui ci stiamo occupando noi, non esistono a se stessi o a se stesse. Nel senso che, a differenza di noi umani, che aneliamo alla sottomissione dell'altro, le piante, ed è di certo questo il loro più grande insegnamento, si realizzano solamente in relazione con l'alterità. Chiaro esempio di questa cosa, che ho appena detto, è proprio il processo di riattivazione che attuano su uno spazio abbandonato oppure danneggiato. Anche se non ce ne accorgiamo, oppure facciamo finta di non accorgercene molto spesso, lo spazio urbano pullula di angoli, strisce o campi abbandonati. E per fortuna, mi viene da dire. In questi luoghi di cui l'uomo si dimentica, la natura riprende possesso. E lo fa in fasi differenti, ognuna propedeutica alla successiva. E questa è la cosa straordinaria. Su un campo arso dal fuoco, come abbiamo già visto qualche puntata fa, solo poche piante pioniere riescono ad attecchire. La loro presenza però non ha i tratti della colonizzazione, anzi. Queste infatti lasceranno posto ben presto a specie più esigenti, per le quali si sono prodigate preparando il suolo, arricchendolo di azoto per esempio, oppure penetrando nel suolo compatto dissodandolo con le loro radici, e quindi aprendo gallerie per i numerosi organismi che le andranno ad occupare, o ancora ricoprendo con le loro foglie morte il terreno, permettendo all'umidità di penetrare. Insomma, un vero proprio lavoro di preparazione. Ci hanno insegnato che le piante sono opportuniste, io direi piuttosto consapevoli. Rispettare questi luoghi abbandonati, quindi, o addirittura progettarli, ci potrebbe permettere di osservare i processi naturali che portano un campo inquinato a diventare bosco, una steppa bruciata a diventare una radura urbana. Insomma, luoghi di osservazione e, perché no, anche dispositivi di misurazione dell'impatto umano sull'ambiente naturale. Come ho detto più volte nel corso di questa puntata, il primo passo secondo me da fare tutti insieme è quello di osservare, che immediatamente si trasformerà in un saper osservare. L'eroico sforzo della Cirenaica per salvare gli olmi è solo il terzo atto di un dramma già quasi finito. Il processo è da modificare nel suo svolgersi e i cittadini della città del XXI secolo hanno tutti gli strumenti per farlo, sapendo riconoscere per esempio il colletto di un albero soffocato dall'asfalto o un capitozzo, oppure la violenza celata dietro una spianata di cemento. Allo stesso tempo, la progettazione di luoghi in cui la presenza umana è limitata, delle riserve naturali incastonate nella città, potremmo chiamarle, possono aiutarci ad educare la nostra osservazione e ad abbandonare alcune convinzioni formali ed estetiche. Sacrosanto, Edo. Allora, in puntata siamo partiti da cosa è il verde urbano, da come non possiamo limitarci ad agire solo sul pubblico, ma bisogna rendere anche i privati più attenti alla gestione dei propri giardini, proprio perché di bene comune si parla e non di oggetti altri. Siamo passati poi a trattare la necessità di avere una manutenzione e progettazione più lungimirante dell'esistente e alla fine, per non lasciare nulla di escluso nonostante il poco tempo che abbiamo, abbiamo posto l'attenzione sui residui urbani. Ci piacerebbe che tutti voi, come potenziali giardinieri, vagabondi e vagabonde, provaste a fare questo esercizio camminando in città, in tutti quegli spazi, anche microscopici, non gestiti, spesso definiti addirittura degradati, e provaste invece a fare uno slittamento di senso, a cambiare le lenti con cui si osservano, trovare la bellezza di un fiore solitario che sbuca sull'asfalto rispetto a come sarebbe quel lastricato di cemento se fosse intonso. Al di là delle grandi retoriche che si fanno sulle città sostenibili del futuro, quello che serve in primis è che cambi un po' il nostro rapporto con le aspettative che abbiamo rispetto a questi spazi. Come abbiamo detto, il verde non è solo un colore. C'è bisogno che torni a essere considerato come il nostro habitat di riferimento, un soggetto a cui lasciare spazio e libertà ovunque ciò sia possibile, e non solo un oggetto da controllare. Welcome to the biggest crime that's ever been committed. You think you and I are different, can't you caught up in specifics? You and I apart are easier to limit. The illusion so complete, it's impossible to bring it into focus. Cinematic stock footage, you think people are locusts. Uniform men keep unleashing explosives. What we gonna do to wake up? We sleep so deep, it don't matter how they shake us. If we can't face it, we can't escape it. But tonight the storms come. Tunnel vision, tunnel vision. tunnel vision. Work drinks heartbreak. You can't face the past to pass a dark place. Can't sleep, can't wake, sitting in our boxes, notching up our victories as other people's losses. Another day, another chance to turn your face away from pain. Let's get a takeaway. You meet me in the pub a little later, we'll say the same things as ever. Life's a waiting game. When we're gonna see that life is happening, and every single body bleeding on its knees is an abomination, and every natural being is making communication, and we're just sparks, tiny parts of a bigger constellation. We're minuscule molecules that make up one body. You see, the tragedy and pain of a person that you've never met is present in your nightmares, in your pull towards despair. And the sickness of the culture and the sickness in our hearts is a sickness that's inflicted by this distance that we share. Now it was our bombs that started this war, and now it rages far away, so we dismiss all its victims as strangers, but their parents and children made dogs by the danger. Existence is futile, so we don't engage. But it was our boats that sailed, killed, stole and made frail. It was our boots that stamped, it was our courts that jailed, and it was our fucking banks that got bailed. It was us who turned bleakly away, looked back down at our nails and our wedding plans. In the face of a full force gale, we said, well, it's not up to us to make this place a better land. It's not up to us to make this place a better land. Justice, justice, recompense, humility. Trust is, something we will never see. Till love is unconditional, the myth of the individual has left us disconnected, lost and pitiful. I'm out in the rain, it's a cold night in London, and I'm screaming at my loved ones to wake up and love more. I'm pleading with my loved ones to wake up. Bene, anche oggi siamo arrivati alla conclusione. Ci piacerebbe aver instillato anche solo un dubbio in anche solo uno o una di voi. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora e vi ricordo che se ve la siete perse potete recuperare i podcast delle puntate precedenti sul sito della radio. I nostri contatti sono sia per Instagram che per Facebook, il Vivaietto Bologna. Vi lascio riportandovi una scritta che ho letto nel bagno di un bar qualche tempo fa. Ti osservo, non accorgerti di me. Ciao vagabonde vagabondi.